Ma mi hai visto e manco poco. Caccio un piccione con un mezzo caccia vuoto. Poi ti parte fuori gioco, rubo un bacio e te lo porto. Le dice fuori corso, beve a goccia un po' di mosco. In radio c'era passo, passo, passo, passo. Ti metterei 200.000 like a quella foto. Corso Trieste, piccola veste. C'hai 18 anni, c'è PCR. Ti sta una crema e tuo dialetto di Cremona. Sabina bene, bene a quello mio di Roma. Ti faccio un fischio, non squillo scende. Prendi in giro, fa gna gna gna gna. Andiamo al sushi e tutti mangigli da mame. Io che sono andato per una vita matriciana.